In Africa ho sempre avuto soltanto di quei cani bracchi scozzesi, grigi col pelo ispido, che servono di solito per la caccia al cervo. È la razza più nobile ed elegante che esista. Devono essere vissuti con gli uomini per molti secoli per capire la loro vita e le loro abitudini e saperci si adattare come ci si adattano. Si vedono spesso anche nei quadri e negli arazzi antichi. Dovunque si trovino, col loro piglio e col loro stile, tendono a trasformare l'ambiente in un arazzo. Portano con sé un'atmosfera feudale. Il capostipite della mia tribù si chiamava Dusk. L'avevo avuto come regalo di nozze. Era con me quando avevo cominciato la mia vita in Africa, sul mio Mayflower, per così dire. Fiero e coraggioso, i primi mesi di guerra, quando facevo i trasporti per il governo con carri trascinati da buoi nella riserva Masai, me lo portavo sempre dietro. Ma qualche anno dopo fu ucciso dalle zebre. Quando presi in casa Lulu, avevo due dei suoi figli. Il braco si accordava benissimo col paesaggio africano e con gli indigeni. Forse era l'abitudine che gli si addiceva, oppure l'armonia degli altipiani, sensibile in tutti e tre. A livello del mare, giù a Mombasa pareva un estraneo. Si sarebbe detto che il grande, scarno paesaggio di pianure, colline e fiumi non fosse completo senza i bracchi scozzesi. Grandi cacciatori avevano più fiuto dei levrieri, ma la caccia la facevano a vista. Ed era una cosa stupenda vederne all'opera due insieme. Li portavo con me quando andavo a cavallo nella riserva, benché non fosse permesso. Mettevano in fuga le zebre e gli gnu che si sparpagliavano per le pianure. Era come se tutte le stelle ruzzolassero selvaggiamente per i cieli. Dotati di un'intelligenza eccezionale, i bracchi sapevano quali dei miei domestici erano maomettani e non potevano toccare i cani. I primi anni avevo un fuciliere somalo di nome Ismail, che morì mentre mi trovavo ancora in Africa. Addestrato dai grandi cacciatori del principio del secolo, quando tutta l'Africa era un vero parco di cervi, si serviva del suo fucile con un'abilità di cui oggi si è perduto il segreto. Della civiltà sapeva solo quello che aveva imparato sui campi di caccia e il suo inglese era l'inglese del mondo dei cacciatori. Parlando dei suoi fucili, diceva il mio piccolo e il mio grande. Tornato in Somalia, mi scrisse una lettera indirizzata alla Leonessa Blixen che cominciava: Onorevole Leonessa, maomettano osservante, per nulla al mondo avrebbe toccato un cane, cosa che nel suo mestiere gli creava un sacco di preoccupazioni. Ma con Dusk fece un'eccezione. Lasciava che lo portassi con noi nelle spedizioni, sui carri trascinati da muli, e gli permetteva persino di dormire nella sua tenda. Sapeva che il bracco riconosceva i maomettani e non si avvicinava. Sul serio, mi assicurava, Dusk vedeva subito se uno era un vero maomettano. Adesso ho capito, disse una volta. Dusk è della mia tribù, ride a tutti. I miei cani accettarono il potere e la posizione di Lulu nella casa. L'arroganza di quei grandi cacciatori a lei faceva l'effetto dell'acqua pura. Li spodestò dalla ciotola del latte e dal loro posto preferito davanti al camino. Le avevo legato al collo un laccio con una campanellina e ben presto si arrivò al punto che i cani, quando sentivano avvicinarsi attraverso le stanze lo scampanellio, si alzavano rassegnati dalle loro cucce calde accanto al fuoco e andavano a sdraiarsi in qualche altro angolo della stanza. Eppure nessuno avrebbe potuto comportarsi meglio di Lulu. Arrivava e subito si metteva giù con la grazia di una perfetta dama che si aggiusta pudicamente la gonna e per nulla al mondo vorrebbe dar fastidio ad anima viva. Beveva il latte con aria cortese e condiscendente, come se cedesse alle insistenze di una padrona di casa eccessivamente gentile. Si faceva grattare dietro le orecchie con civettuola tolleranza, come una mogliettina impertinente che permette al marito di farle una carezza. Quando crebbe, nel fiore della sua grazia e della sua giovinezza, Lulu divenne un'antilope dalle forme snelle e delicatamente tornite, di una bellezza incredibile, dalla testa alla punta dei piedi. Pareva una minuziosa illustrazione del poema di Heine sulle sagge e dolci gazzelle lungo il corso del Gange. Ma Lulu non era veramente dolce, aveva il diavolo dentro. Come tutte le creature di sesso femminile, possedeva il dono di sembrare sempre soltanto sulle difensive, preoccupata di difendere la sua integrità, quando invece era con tutte le sue forze tesa all'offensiva. Contro chi? Contro il mondo intero. I suoi umori non si potevano valutare né prevedere e sarebbe stata capace di aggredire il mio cavallo se se ne fosse ritenuta offesa. Mi ricordai il vecchio Hagenbeck ad Amburgo. Secondo lui, fra tutti gli animali, compresi i grandi carnivori, quello da cui bisogna guardarsi di più è proprio il cervo. Ci si può fidare di un leopardo, ma se ci si fida di un giovane cervo, prima o poi si viene aggrediti alle spalle. Lulu era il vanto della casa, anche quando si comportava come una vera civetta, senza un briciolo di pudore, ma noi non bastavamo a renderla felice. Spesso se ne andava di casa per ore, o addirittura per un intero pomeriggio, a volte quando le entrava dentro lo spirito maligno e la sua scontentezza raggiungeva il culmine, per placare il suo cuore improvvisava sul prato davanti a casa una danza guerresca tutta zigzag, una danza che pareva una invocazione a Satana. Oh Lulu, pensavo, lo so che sei meravigliosamente forte e che puoi fare balzi più grandi di te. Adesso ce l'hai con noi. Vorresti che fossimo tutti morti e lo saremmo se tu volessi fare lo sforzo di ammazzarci. Ma il guaio non è, come credi tu, che noi ti abbiamo messo ostacoli troppo alti perché tu li possa saltare. Come sarebbe possibile con una saltatrice come te? Il guaio è piuttosto che non te ne abbiamo messi affatto. Tutta codesta energia l'hai dentro di te, Lulu, come hai dentro di te gli ostacoli. Il fatto è che non è ancora arrivato davvero il momento. Una sera Lulu non tornò a casa. La cercammo inutilmente per una settimana. Fu un brutto colpo per noi. La casa aveva perso una sua nota luminosa. Sembrava diventata una casa come tutte le altre. Non potevo fare a meno di pensare ai leopardi laggiù lungo il fiume. Un giorno lo dissi a Camante. Come al solito, lasciò passare un po' di tempo prima di rispondere per digerire la mia mancanza di intuito. Fu solo dopo qualche giorno che tornò sul discorso. «Tu credi che Lulu sia morta, Msabu?» disse. Non mi andava di dirlo in modo così brutale e risposi che mi domandavo soltanto perché non fosse tornata. «Lulu», dichiarò, «non è morta, si è sposata». Era una notizia inaspettata e mi faceva piacere. Gli chiesi come lo sapesse. «Oh, sì», disse, «si è proprio sposata. Vive nella foresta col suo Bwana, il suo marito». Oh, padrone, ma si ricorda ancora di noi. Tante mattine torna qui a casa. Io le lascio dietro la cucina il mais macinato e lei poco prima dell'alba arriva dai boschi e se lo mangia. Viene anche il marito, ma lui ha paura degli uomini perché non ne ha mai conosciuti. Resta sotto il grande albero bianco dall'altra parte del prato, ma gli manca il coraggio di avvicinarsi alla casa. Pregai Camante di venirmi a svegliare quando tornava Lulu. Dopo qualche giorno, prima dell'alba, mi chiamò. Era una bella mattina. Le ultime stelle stavano svanendo. Nel cielo chiaro e sereno, il mondo delizioso in cui camminavamo era ancora buio e silenzioso. L'erba molle, ai piedi della foresta dove cominciava il pendio, brillava di rugiada come argento scuro. L'aria fresca aveva quel pungolo da cui, nei paesi del nord, si capisce che presto arriverà il gelo. Anche se si è in Africa da anni e anni, pensavo, sembra impossibile ogni volta, nel buio e nel freddo dell'alba, che dopo qualche ora caldo e luce diventino così intollerabili. La nebbia grigia indugiava sulle colline, ripetendo curiosamente le loro forme. Se erano al pascolo lassù, come dentro una nuvola, i bufali dovevano patire un gran freddo. La grande volta sopra di noi si riempì gradatamente di chiarore, come un bicchiere di vino. Tutto a un tratto, la prima luce colpì dolcemente le cime delle colline, invermigliandole, e lentamente, mentre la terra si inclinava verso il sole, i pendii erbosi ai piedi della montagna si tinsero di un delicato color oro, e più in basso apparvero i boschi Masai. Sulle vette, adesso, gli alberi alti di qua dal fiume divennero rossi come rame. Era l'ora in cui i grandi piccioni selvatici color porpora, che facevano il nido dall'altra parte del fiume, venivano a becchettare sui castagni del mio bosco. Si fermavano da noi solo per poco, arrivavano veloci come una carica di cavalleria alata. Per questo la caccia mattutina ai piccioni era tanto popolare fra i miei amici di Nairobi. Partivano di notte per giungere alla fattoria prima dell'alba. Il viale ancora buio era tutto punteggiato dai fanali delle loro automobili. In quella limpida penombra, con le vette dorate e il cielo puro sopra di noi, si aveva la sensazione di camminare in fondo al mare, in mezzo a correnti che ci sfiorassero, e di guardare in alto verso la superficie dell'oceano. Un uccello cominciò a cantare, poco Poco lontano, nella foresta, sentii il tintinnio di una campanella. Oh, che gioia! Era proprio Lulu che tornava alla sua vecchia casa. Stava avvicinandosi, potevo seguire i suoi movimenti dal ritmo della campanella. Veniva avanti, si fermava, veniva avanti di nuovo. Ed ecco, vedere un antilope così vicino a casa pareva a un tratto una cosa insolita e divertente. Stava immobile, evidentemente si aspettava di incontrare Camante, non me. Non cercò di scappare, però. Mi guardava senza paura. Pareva avesse completamente dimenticato le nostre vecchie schermaglie, l'ingratitudine che mi aveva dimostrato scomparendo tanto all'improvviso. La Lulu dei boschi era una creatura superiore, indipendente. Il suo spirito era mutato. Essa aveva preso possesso dei suoi beni. Un tempo conoscevo una giovane principessa in esilio che aspirava al trono. Ora quella stessa principessa la ritrovavo nello splendore della regalità riacquistata. In quel momento Lulu dimostrava la superiorità d'animo che dimostrò Luigi Filippo quando dichiarò che il re di Francia non ricordava i rancori del duca di Orléans. Ora era interamente se stessa. Ogni spirito aggressivo l'aveva abbandonata. Chi avrebbe dovuto assalire e perché? Si fondava tranquilla sui suoi diritti divini. Si ricordava abbastanza bene di me per sapere che non era una cosa di cui aver paura. Mi squadrò un attimo, gli occhi viola e fumanti, senza espressione, non batté il ciglio, e ricordai che questo è un tratto degli dèi e delle dee. Avevo la sensazione di trovarmi davanti a Era, la dea dagli occhi bovini. Nel passarmi accanto, dette un piccolo morso a un filo d'erba, fece un salto aggraziato e proseguì verso il dietro della cucina dove l'aspettava il suo mais. Camante, toccandomi il braccio con la punta delle dita, indicò il bosco. Seguendo il suo sguardo, vidi sotto un alto castagno del capo un antilope maschio, una piccola figura fulva al margine della foresta con un bel paio di corna, immobile come un tronco. Dopo averlo osservato un attimo, Camante si mise a ridere. Ecco, disse. Lulu gli ha spiegato che qua intorno non c'è nulla di cui aver paura, eppure lui non ha il coraggio di avvicinarsi. Questa volta arrivo fin laggiù, pensa tutte le mattine, ma poi quando vede la casa e la gente si sente un buco nello stomaco. Succedeva spesso anche agli indigeni, con gran danno per il lavoro della fattoria. E resta là, inchiodato. Per molto tempo Lulu continuò a venire a casa la mattina presto. Il suo limpido scampanellio annunciava che il sole era apparso sulle colline. A letto io aspettavo il suo segnale. A volte scompariva per qualche settimana e sentivamo la sua mancanza. Cominciavamo a parlare dei cacciatori in giro per le colline. Ma poi i ragazzi annunciavano: «C'è Lulu!» come fosse stata una figlia maritata che veniva a farci visita. Rividi ancora qualche volta la figuretta del maschio profilarsi fra gli alberi. Ma Camante aveva ragione, non ebbe mai il coraggio di arrivare fino alla casa. Un giorno, tornando da Nairobi, trovai Camante ad aspettarmi sulla porta della cucina. Mi venne incontro, tutto eccitato, per dirmi che Lulu quella mattina era venuta insieme al suo Toto, il figlio. Dopo qualche giorno, io stessa ebbi l'onore di incontrarla fra le capanne dei domestici, vigile, niente affatto disposta a lasciarsi vezzeggiare. Aveva alle calcagna un cerbiatto piccolo piccolo, goffo e deliziosamente tardo nei movimenti, proprio come era lei la prima volta che l'avevamo vista. Fu poco dopo le grandi piogge. Per tutta l'estate la trovavamo vicino alle case, a qualsiasi ora del giorno, dall'alba al tramonto. Gironzolava là intorno, persino verso mezzogiorno, riparandosi all'ombra delle capanne. Il cerbiatto di Lulu non aveva paura dei cani e si lasciava annusare da tutte le parti, ma non dava confidenza né a me né agli indigeni. Se cercavamo di prenderlo, madre e figlio sparivano. La stessa Lulu, dopo quella lunga assenza, non si avvicinava mai fino a farsi toccare. Per il resto era molto cordiale. Ci lasciava ammirare il suo cerbiatto e mangiava i pezzetti di canna da zucchero che le porgevamo con la mano tesa. Arrivava fino alla sala da pranzo, sempre aperta, guardando pensosa la fila delle stanze in penombra, ma non varcò mai più la soglia. Aveva perso la campanella e andava e veniva senza far rumore. I miei ragazzi volevano il permesso di prendere il cerbiato per tenerlo con noi, come avevamo tenuto Lulu, ma non volli. Sarebbe stato un modo ben grossolano di ricambiare la nobile fiducia che Lulu ci aveva dimostrato. La libera unione fra la mia casa e l'antilope mi pareva una cosa preziosa e rara. Venendo dal mondo selvaggio, Lulu era la prova della nostra armonia con esso. Creava un legame inscindibile fra la mia casa e la natura africana, sicché nessuno poteva dire dove finiva l'una e cominciava l'altra. Sapeva dov'era la tana del cinghiale gigante della foresta. Aveva visto accoppiarsi il rinoceronte. In Africa, quando fa caldo, nel pieno del giorno, un cuculo canta nel folto della foresta, come il battito sonoro del cuore del mondo. Nessuno poteva dirmi com'era fatto, perché nessuno aveva mai avuto la fortuna di vederlo. Lulu, invece, percorrendo qualche sentiero dei cervi e dei caprioli, tutto verde, forse era passata sotto il ramo dove era appollaiato. In quei giorni stavo leggendo un libro sulla grande e antica imperatrice della Cina. Dopo aver dato alla luce suo figlio, la giovane Jahanola si recò a visitare la dimora dei suoi padri. Partì dalla città proibita sul palanchino d'oro, ornato di verzura. Ecco, pensavo. Per Lulu la mia casa è come la dimora dei genitori della giovane imperatrice. Le due antilopi, madre e figlio, rimasero tutta l'estate vicino alla fattoria. A volte non si facevano vedere per intere settimane, altre invece comparivano ogni giorno. Al principio della nuova stagione delle piogge, seppi dai Totos che Lulu era tornata con un nuovo cerbiatto. Io non lo vidi perché non si avvicinarono più tanto alla casa. Ma da allora scorsi spesso nella foresta tre antilopi in gruppetto. L'alleanza fra la famiglia di Lulu e la mia casa durò molti anni. Le antilopi lasciavano spesso i boschi per tornare a gironzolare intorno alla fattoria come se fosse stata solo una provincia delle selve. Arrivavano prima del tramonto e da principio si scorgevano le loro figurette avanzare fra gli alberi, delicate e scure nel verde cupo. Ma quando uscivano a pascolare sul prato, nella luce del pomeriggio, la loro pelle brillava come rame. Una era Lulu, poiché veniva fin sotto la casa e gironzolava tranquilla qua e là, drizzando le orecchie se sentiva arrivare una macchina o aprire una finestra. E i cani la riconoscevano. Con gli anni divenne più scura di pelle. Una volta, tornando a casa in macchina con un amico, trovai le tre antilopi intorno al sale preparato per le mucche sulla terrazza. Stranamente, eccettuato il primo, il buona di Lulu che avevo visto sotto il castagno, fra le antilopi che venivano alla mia casa non c'era nessun maschio. Avevamo dinanzi un matriarcato della foresta, evidentemente. I cacciatori e i naturalisti della colonia si interessarono alle mie antilopi. E il maestro di caccia venne alla fattoria apposta per vederle. Un giornalista scrisse un articolo sopra di loro sull'East African Standard. Gli anni in cui Lulu e i suoi venivano a gironzolare intorno alla casa furono gli anni più felici della mia vita in Africa. Finii per considerare la mia familiarità con le antilopi come una grande benedizione, una prova di amicizia che l'Africa mi concedeva. C'era tutto il paese là dentro, presagi di felicità, antichi patti, un canto. Fai presto, amor mio, e sii come un capriolo o un giovane cervo sulla montagna piena di aromi. Gli ultimi tempi vedevo sempre più di rado Lulu e la sua famiglia. L'anno prima che lasciassi l'Africa non vennero mai, mi sembra. Le cose erano cambiate. Nella parte più a sud della fattoria, ceduta ad altre colonie, la foresta era stata abbattuta per costruire case. Dove prima erano le radure, ora passavano sbuffando trattori. Fra i nuovi arrivati, molti amavano lo sport e la campagna echeggiava di spari. Fu allora, penso, che gli animali si ritrassero verso occidente, rifugiandosi nei boschi della riserva Masai. Non so quanto vivano le antilopi, probabilmente Lulu è morta tanto tempo fa. Molte, molte volte, nelle ore quiete dell'alba, ho sognato di sentire il suo limpido scampanellio. Nel sonno trasalivo di gioia, mi svegliavo con l'attesa di qualcosa di strano e di dolcissimo che dovesse succedere proprio allora, di lì a un istante. Poi, prima di riprendere sonno, mi chiedevo se nei boschi Lulu aveva mai sognato la sua campana. Le erano mai passate nella mente come ombre sull'acqua immagini di uomini e di cani? Ora io so una canzone dell'Africa, pensavo, una canzone della giraffa e della luna nuova sdraiata sul dorso, dell'aratro nei campi e dei visi sudati degli uomini che raccoglievano il caffè. Ma sa l'Africa una canzone che parla di me? Vibra nell'aria della pianura il barlume di un colore che io ho portato. C'è fra i giochi dei bambini un gioco che abbia il mio nome. Proietta la luna piena sulla ghiaia del viale un'ombra che mi somiglia. Vanno in cerca di me le aquile del Ngong. Non ho più avuto notizie di Lulu da quando sono partita, ma di Camante e degli altri domestici sì. Camante mi ha scritto l'ultima volta non più di un mese fa, ma queste notizie dell'Africa quando arrivano mi sembrano strane, irreali, più ombre o miraggi che notizie di una realtà. Camante infatti non sa scrivere e non conosce l'inglese. Sia lui che gli altri, quando vogliono darmi notizie, vanno da uno degli scrivani di professione, indiani o neri, seduti al loro scrittoio con carta, penna e calamaio davanti all'ufficio postale, e gli spiegano cosa vogliono dire. Anche gli scrivani conoscono ben poco l'inglese e non sanno nemmeno veramente scrivere, ma sono convinti di sì. Per dar prova del loro talento, riempiono le lettere di svolazzi che le rendono difficilissime da decifrare. Spesso adoperano persino tre o quattro inchiostri diversi. Chissà perché. Certo, chi legge ha l'impressione che si siano trovati a corto di inchiostro e abbiano dovuto sgocciolare tutte le boccettine vuote. Risultato di tanti sforzi. Sono dei messaggi che sembrano i messaggi dell'oracolo di Delfo. Eppure, ogni lettera che ricevo ha una strana profondità. Sento che chi me l'ha mandata doveva comunicarmi qualcosa di vitale importanza e per questo si è fatto tutta la strada dalla riserva Kikuyu all'ufficio postale. Ma quel qualcosa rimane avvolto nel mistero. Quando si ha nelle mani quel foglietto tutto sporco da quattro soldi, si intuisce che ha fatto migliaia di chilometri per parlarci, gridarci forse qualcosa, ma non ci dice assolutamente nulla. Camante, però, anche in questo, come in tante altre cose, è diverso dagli altri. È un metodo tutto suo per la corrispondenza. Mette due o tre lettere nella stessa busta, numerandole. Prima lettera, seconda lettera e così via. Contengono tutte la stessa cosa, ripetuta all'infinito. Forse con la ripetizione vuol creare in me un'impressione più profonda. Faceva lo stesso quando voleva assolutamente che capissi o che non dimenticassi qualcosa, o forse, sentendo di essere in qualche modo in contatto con un'amica tanto lontana, gli è duro staccarsene. Camante scrive che è rimasto per molto tempo senza lavoro. Non mi meraviglia, è troppo raffinato per la gente qualunque. Ho educato un cuoco da re e poi l'ho lasciato in una colonia appena formata. Con lui fu un po' un apriti sesamo. Ora la parola magica è andata perduta. La porta di pietra si è chiusa per sempre sui mistici tesori che conteneva. E al posto del grande chef che andava su e giù per la cucina, immerso in pensieri profondi, pieno di maestria, la gente vede solo un piccolo Kikuyu con le gambe storte, un nano con la faccia piatta, inespressiva. Cosa vuol dirmi Camante quando arriva a piedi fino a Nairobi? Si mette là davanti allo scrivano indiano, avido e pieno di boria, e gli espone un messaggio che deve fare il giro di mezzo mondo. Le righe sono tutte storte, le frasi senza ordine, ma Camante ha una grandezza d'animo di cui chi l'ha conosciuto sente ancora l'eco, in quella musica rotta e sconnessa, quasi come l'eco dell'arpa di Davide. Ecco una seconda lettera. Io non sono scordato te, Mem Sahib, onorata Mem Sahib. Ora tutti i tuoi servi non mai felici perché tu partita. Se eravamo uccelli, volavamo a vederti, poi noi torniamo. Allora la tua vecchia fattoria era buon posto per mucche, vitellini, gente nera. Ora non avevano mucche affatto, né capre, pecore, essi non ha nulla. Ora tutta cattiva gente gioiscono in cuore perché tuo vecchio servo è diventato povero ora. Ora Dio sa in cuor suo tutto questo per aiutare qualche volta tuo servo. Ed ecco in una terza lettera un esempio di come gli indigeni possono dire una cosa gentile. Scrivi e dici se torni. Crediamo torni. Perché? Crediamo che non potrai mai dimenticarci. Perché mai? Crediamo tu ricordi ancora tutte le nostre facce e i nomi delle nostre madri. Un bianco, per dire una cosa affettuosa, scrive: Non ti posso scordare. Gli africani dicono: Noi non crediamo tu possa mai scordarti di noi. Parte seconda. Un incidente alla fattoria. Capitolo primo. Lo sparo. La sera del 19 dicembre, prima di andare a letto, uscii per vedere se sarebbe piovuto. Molti altri coloni probabilmente stavano facendo la stessa cosa a quell'ora. A volte, negli anni fortunati si aveva qualche acquazzone proprio intorno a Natale ed era una gran cosa per il caffè appena spuntato sugli alberi, dopo la fioritura delle brevi piogge di ottobre. Ma quella notte non pareva dovesse piovere. Il cielo nel silenzio era sereno e trionfante, pieno di stelle. Il firmamento all'equatore è più stellato che nel nord e lo si vede di più perché si sta fuori più a lungo dopo il tramonto. Nell'Europa del Nord, d'inverno, la notte fa troppo freddo perché ci si possa abbandonare al piacere di contemplare le stelle, mentre d'estate si distinguono male, nel cielo chiaro e pallido come la viola ciocca. La notte tropicale ha la cordialità della Chiesa Cattolica Romana di fronte alle chiese protestanti del Nord, dove è permesso entrare solo per le funzioni religiose. Là, in quel grande spazio, si arriva e si va via come si vuole e tutto continua senza mutare. In Africa, in Arabia, con il sole micidiale di mezzogiorno, il momento adatto per viaggiare e per intraprendere qualcosa è la notte. Ogni stella ha il suo nome. Da secoli hanno fatto da guida agli uomini, mostrando la strada alle lunghe carovane attraverso le sabbie del deserto e il mare a est, a ovest, a nord e a sud. Si va bene in macchina la notte e guidare è piacevole. Col tempo, quando si vuol far visita ad amici che stanno in campagna, si impara a darsi appuntamento per la prossima luna piena. Si parte per il safari alla luna nuova, in modo da avere il vantaggio di un ciclo intero di notti di luna. Tornando per un breve periodo in Europa, sembra strano che in città la gente viva senza tener conto delle fasi della luna e quasi senza notarle. La luna nuova era il segnale di partenza per il cammelliere di Caggia. Appena spuntava nel cielo, la carovana si metteva in moto, il viso rivolto verso di lei. Egli era uno dei filosofi che dalla luce della luna traggono i sistemi dell'universo. Doveva averla guardata così a lungo che l'assunse come segno della sua conquista. Mi ero fatta una fama fra gli indigeni, perché diverse volte alla fattoria avevo visto per prima la luna nuova come un sottile arco d'argento nel tramonto, e soprattutto perché per 2 o 3 anni di seguito avevo visto per prima la luna nuova del mese di Ramadan, il mese sacro maomettano. Il coltivatore volge lentamente lo sguardo per tutto l'orizzonte, prima a oriente, perché è da oriente che verrà se verrà la pioggia. Là spicca nitida la benda della Vergine. Poi a sud, per salutare la Croce del Sud, portinaia del grande mondo, fedele ai viaggiatori e amata da loro. E più in alto, sotto la striscia luminosa della Via Lattea, Alfa e Beta nella costellazione del Centauro. A sud-ovest brillano il grande Sirio e il pensoso Canopus, ad occidente, sopra il profilo appena accennato, e ora quasi ininterrotto delle colline dell'Ngong splendono Rigel, Betelgeuse e Bellatrix, diamanti radiosi di un gioiello. Infine si volge a nord, perché è a nord che finirà per tornare. Là scorge l'Orsa Maggiore in persona, che ora, per la prospettiva dei cieli, sta a testa in giù. Ha tutta l'aria di uno scherzo da orsi che mette allegria nel cuore dell'emigrante del nord. Chi di notte, dormendo, sogna, conosce un genere di felicità ignota nel mondo della veglia, una placida estasi e un riposo del cuore che sono come il miele sulla lingua. Sa anche che la vera bellezza dei sogni è la loro atmosfera di libertà infinita, non la libertà del dittatore che vuole imporre la sua volontà nel mondo, ma la libertà dell'artista, privo di volontà, libero dal volere. Il piacere del vero sognatore non dipende dalla sostanza del sogno, ma da questo. Tutto quello che accade nel sogno non accade solo senza il suo intervento, ma fuori del suo controllo. Si creano spontaneamente paesaggi, vedute splendide e infinite, colori ricchi e delicati, strade, case che non ha mai visto e di cui non ha mai sentito parlare. Compaiono degli sconosciuti che sono amici o nemici, benché chi sta sognando non abbia mai fatto nulla per loro né contro di loro. L'idea della fuga e l'idea dell'inseguimento tornano sempre nei sogni, entrambe ugualmente estasianti. Tutti dicono cose piene di intelligenza e spiritose. È vero che cercando di ricordarle durante il giorno paiono sbiadite e senza senso perché appartengono a un'esistenza diversa, ma appena il sognatore si sdraia, la notte il circuito si riallaccia e i sogni tornano a sembrargli stupendi. Una libertà immensa, una beatitudine ultraterrena circola dentro di lui o di lei, come l'aria e la luce. È un essere privilegiato, è la persona che non ha obblighi, la persona per la cui ricchezza e il cui piacere sono chiamate a raccolta tutte le cose. I re di Tarso le porteranno i loro doni. Trovandosi in mezzo ad una grande battaglia o ad un ballo, prova il lieto stupore di potervi partecipare stando sdraiata. Solo quando si comincia a perdere la coscienza della libertà, quando l'idea della necessità mette piede nel mondo, quando c'è, come che sia, fretta o sforzo, una lettera da scrivere o un treno da prendere, quando si è costretti a lavorare, a spronare i cavalli del sogno o a premere il grilletto del fucile, il sogno decade. E si trasforma nell'incubo che appartiene alla categoria meno ricca e più rozza dei sogni. La cosa più vicina al sogno nel mondo della veglia è la notte in una grande città dove tutti sono sconosciuti per tutti, o la notte in Africa. Anche lì c'è libertà infinita. Le cose vanno avanti per conto loro, destini si intrecciano intorno a noi, dappertutto c'è vita e movimento, ma tutto questo non ci riguarda. In Africa, appena cade la sera, l'aria si riempie di pipistrelli che si incrociano nei loro voli silenziosi, come macchine sull'asfalto. Passa anche il falco notturno, l'uccello che poco prima hai scorto appollaiato sulla strada. I fanali della tua auto hanno acceso per un istante nei suoi occhi un lampo rosso e subito ha spiccato il suo volo verticale verso l'alto. Le scimmiette uscite sulle strade fanno le loro movenze, accucciandosi e poi balzando avanti come canguri in miniatura. Nell'erba la cicala canta il suo canto interminabile. Odori corrono lungo la terra e stelle cadenti piovono nel cielo come lacrime su una guancia. Tu sei la creatura privilegiata a cui tutto viene portato. I re di Tarso recheranno doni. Poche miglia più in là, nella riserva Masai, le zebre stanno cercando altri pascoli. Le mandrie si sparpagliano, strisce più chiare nel grigio della pianura. I bufali sono usciti a pascolare sui lunghi versanti delle colline. Da noi, i giovani passavano davanti alla casa due o tre per volta in fila indiana, esili ombre scure sul prato. Scalzi tiravano diritti per la loro strada, non stavano lavorando per me e non era affar mio. Scorgendo la punta accesa della mia sigaretta, rallentavano appena il passo, salutandomi senza fermarsi. Jambo Mzabu. Jambo Morani, giovani guerrieri, dove andate? Andiamo alla maniata di Kategu. Kategu ha una grande ngoma stasera. Buonanotte, Mzabu. Se vanno al ballo, in molti si portano il loro tamburo. Se ne distingue l'eco anche a grande distanza, come il battito sottile di una vena nel dito della notte. Poi a un tratto, inaspettatamente, l'orecchio percepisce quello che non è tanto un suono quanto una profonda vibrazione dell'aria, il breve ruggito di un leone in lontananza. È in moto, sta cacciando. Le cose continuano ad andare avanti laggiù. Il ruggito non si ripete, ma ha allargato l'orizzonte. Ti arrivano le lunghe concimaio e la pozza sorgiva. Ero davanti a casa quando echeggiò uno sparo, poco distante. Poi di nuovo. La quiete della notte si richiuse tutti intorno, quasi avessero taciuto per ascoltare, sentii le cicale riprendere il loro piccolo canto monotono fra l'erba. Uno sparo isolato nella notte ha qualcosa di stranamente definitivo e fatale. Pare che qualcuno ci abbia gridato un messaggio, una sola parola che non ripeterà mai più. Mi chiesi cosa potesse significare. A quell'ora non si va a caccia, e se si vuole spaventare qualcuno non si spara una volta sola. Forse una iena sgattaiolata dentro al mulino stava facendo a brandelli le pelli di bue, tirate coi pesi che dovevano servire per le redini dei nostri carri, e Puran Singh, il mio vecchio carpentiere indiano, le aveva sparato. Puran Singh non era un eroe, ma per amore delle sue redini avrebbe potuto sparare col suo vecchio fucile da uno spiraglio della porta della capanna. Anche lui, però, avrebbe scaricato tutte e due le canne, o addirittura gustato il piacere dell'eroismo, le avrebbe caricate e scaricate una seconda volta. Ma uno sparo solo, e poi silenzio. Aspettai un pezzo il secondo colpo, ma non venne, come non veniva la pioggia quando guardai di nuovo il cielo. Allora presi un libro e andai a letto, lasciando la lampada accesa. In Africa, quando si trova un libro che ci piace, fra l'ammasso di letteratura nefasta che le povere navi sono costrette a portare fin laggiù dall'Europa, lo si legge come ogni scrittore vorrebbe si leggessero i suoi libri, pregando Dio che possa essere fino in fondo bello come al principio. L'immaginazione corre con entusiasmo su un sentiero fresco, verde e profondo. Non erano passati 3 minuti che una motocicletta svoltò a tutta velocità l'angolo del viale e si fermò davanti alla casa. Qualcuno bussò forte alla porta a vetri della stanza da pranzo. Mi infilai una sottana, un paio di scarpe e una giacca, presi la lampada e uscii. Fuori c'era Belknap, l'amministratore, con gli occhi stralunati e il viso rigato di sudore. Era un americano e aveva un vero genio per la meccanica, ma non conosceva vie di mezzo. A sentir lui, o stava per cominciare il regno dei cieli, o tutto era nero e senza un barlume di speranza. I primi tempi che lavorava per me, le sue visioni contrastanti della vita, della nostra situazione e del futuro della fattoria, obbligandomi a una terribile altalena mentale, mi scombussolavano. Ma finii per abituarmici. Per il suo temperamento esuberante e carico di energia, costretto temporaneamente a una vita poco movimentata, quegli alti e bassi erano solo una specie di ginnastica emotiva, quotidiana. Reazione abbastanza comune nei bianchi giovani ed energici, soprattutto se vengono da una grande città. Ma adesso usciva da una tragedia e non sapeva ancora se ingrandirla per saziare la sua anima avida di emozioni o minimizzarla per fuggirne l'orrore. In quel dilemma sembrava un ragazzo che corre, come se la sua vita ne dipendesse, ad annunciare una catastrofe e parlava balbettando. Alla fine preferì minimizzarla, perché per lui non c'era nessuna parte da recitare. Il destino lo aveva escluso un'altra volta. Farah intanto ci aveva raggiunti, ascoltò anche lui il tragico racconto. Tutto era cominciato con uno scherzo, con un gioco innocente, disse Belknap. Il suo cuoco aveva avuto un giorno di permesso e, approfittando della sua assenza, il toto di cucina, Cabero, un bambino di 7 anni, figlio di quella vecchia volpe di Caninu, lo scuoter della sciamba più vicina, aveva dato una festa. Quando sul tardi la compagnia era diventata molto allegra, Cabero aveva preso la carabina del padrone e, davanti ai suoi selvaggi amici delle pianure e delle sciambas, aveva voluto imitare l'uomo bianco. Esperto allevatore di gallinacei, Belknap preparava capponi e pollastre, comprava galline di razza al mercato di Nairobi e teneva sulla veranda una carabina per spaventare i falchi e le tigri. A sentir lui, quando ne riparlammo più tardi, l'arma era scarica e i bambini avevano trovato per caso le cartucce e l'avevano caricata loro stessi. La sua versione, però, mi convinceva poco. Anche volendo, difficilmente ci sarebbero riusciti. Probabilmente si era scordato che una volta tanto la carabina era stata lasciata carica sulla terrazza. In ogni modo, chiunque ce l'avesse messa, la pallottola era nella canna quando Cabero, nella foga della sua giovinezza e della popolarità conquistata, puntò l'arma contro i suoi ospiti e tirò il grilletto. Lo sparo rintronò per tutta la casa. 3 bambini, feriti leggermente, scapparono atterriti dalla cucina. 2 erano ancora là, feriti gravemente o morti. Belknap finì il racconto con un lungo anatema contro il continente africano e tutte le sue vicende. I domestici, accorsi poco prima ad ascoltare, tornarono ora nelle capanne per prendere una lampada antivento e munirsi di bende e disinfettanti. Nessuno fiatava. Per mettere in moto la macchina ci sarebbe voluto chissà quanto. Si faceva prima a piedi, passando per la foresta. Mentre correvamo per il sentiero stretto, la luce della lampada, oscillando, proiettava da un lato all'altro le nostre ombre. Ci giungevano a tratti, brevi e strazianti, gli urli di un bambino in agonia. La cucina aveva la porta spalancata, quasi che la morte, piombatavi all'improvviso, fosse fuggita, lasciandola in una spaventosa devastazione, come un pollaio dove il tasso ha fatto strage. Sul tavolo, una lampada da cucina accesa mandava fumo fino al soffitto. Accanto alla lampada scorsi la carabina. C'era sangue dappertutto e quasi scivolai sul pavimento. Con le lampade antivento è difficile illuminare un punto preciso, ma di una stanza o di una scena si ha un'impressionante visione di insieme. Le cose che ho visto in quella luce le ho ancora vive nella memoria. Riconobbi i due bambini feriti. Li avevo incontrati tante volte sulla pianura mentre pascolavano le greggi dei loro genitori. Wamai, il figlio di Giogona, un bambino pieno di vita, aveva anche frequentato per qualche tempo la nostra scuola, ora giaceva sul pavimento fra il tavolo e la porta, ormai in fin di vita. Aveva perso conoscenza, ma a tratti emetteva ancora un gemito. Lo spostammo per poterci muovere nella stanza. Chi urlava era Wanyan Gerry, il più piccolo dei bambini intervenuti alla festa. Era seduto, piegato in avanti, verso la lampada. Il sangue gli sgorgava dal viso come acqua da una pompa, se ancora si poteva parlare di viso. La pallottola gli aveva portato via tutta la mascella inferiore. Evidentemente si trovava proprio davanti alla canna quando Cabero aveva sparato. Teneva le braccia penzoloni lungo i fianchi, alzandole e abbassandole a tratti come i manubri di una pompa, come le ali di una gallina quando la sgozzano. Trovandosi di colpo dinanzi a una simile tragedia, si ha la sensazione che ci sia una sola via di uscita, la legge della caccia del cortile, uccidere subito ad ogni costo. Ma allo stesso tempo si sa che non si può, e la mente si dibatte nel terrore. Misi le mani sulla testa del bambino e la premetti, impotente, disperata, e in quello stesso istante, quasi lo avessi veramente ucciso, cessò di gridare. Rimase eretto, con le braccia abbandonate come fosse stato di legno. Da allora so che sensazione si prova a curare con l'imposizione delle mani. È difficile fasciare un ferito cui manca tutta la parte del viso. Se si cerca di fermare il sangue si rischia di farlo morire soffocato. Dovetti poggiare il bimbo sulle ginocchia di Farah, che gli teneva ferma la testa. Se fosse caduta in avanti, difatti, non avrei potuto fissare la fasciatura. Se fosse scivolata all'indietro, il sangue scorrendo gli avrebbe chiuso la gola. E finalmente, mentre rimaneva immobile, riuscì a mettere a posto le bende. Poi sdraiammo Wamai sul tavolo e sollevammo la lampada per guardarlo. La scarica della carabina lo aveva colpito in pieno petto e nella gola. Non versava molto sangue, solo un filo dall'angolo della bocca. Non pareva vero che quel bambino, pieno di vita, come un cerbiatto, fosse ora così quieto. Il suo viso, d'un tratto, si mutò. Prese un'espressione di profonda sorpresa. Mandai Farah a casa a prendere la macchina. Non c'era tempo da perdere, bisognava portare subito i due bambini all'ospedale. Mentre aspettavamo il suo ritorno, chiesi di Cabero, il bambino che aveva sparato e sparso tutto quel sangue. Belknap allora mi raccontò una cosa strana. Qualche giorno prima Cabero aveva comprato dal padrone un vecchio paio di pantaloncini al prezzo di una rupia, che sarebbe stata detratta dal suo stipendio. Quando, sentito lo sparo, Belknap si era precipitato in cucina, aveva visto Cabero in mezzo alla stanza con la carabina ancora fumante in mano. Il bimbo lo fissò per un attimo, si frugò nella tasca dei pantaloncini appena comprati e indossati proprio per la festa, tirò fuori una rupia e la gettò sul tavolo con la mano sinistra, mentre con la destra buttava anche la carabina. Chiusi così i suoi conti con il mondo, scomparve. Veramente, benché in quel momento non lo sapessimo, dopo quel gesto di grandezza sparì dalla faccia della terra. Era un comportamento insolito per un indigeno, perché gli indigeni in genere cercano di relegare i debiti, soprattutto i debiti con i bianchi, al margine dei loro pensieri. Farah Forse quel momento a Cabero era parso quasi il giorno del giudizio e si era sentito costretto a recitare la sua parte fino in fondo. O forse, nell'ora del bisogno, aveva cercato di assicurarsi un amico, oppure il colpo, il rintronamento, la morte dei suoi amici intorno a lui avevano infranto violentemente la piccola sfera delle idee del fanciullo e frantumi della periferia erano stati scaraventati proprio nel centro della sua coscienza. In quel periodo avevo una vecchia macchina Overland. Non ne parlerò mai male perché mi ha servita fedelmente per molti anni, ma difficilmente si lasciava convincere ad andare con più di 2 cilindri. Anche i fanali non funzionavano, sicché quando andavo a ballare al club Mutaika usavo come fanalino posteriore una lampada antivento avvolta in un fazzoletto rosso. Per farla partire bisognava prima spingerla e quella sera ci volle un bel po' di tempo. Quelli che venivano a trovarmi alla fattoria si erano sempre lamentati dello stato della mia strada. Adesso, in quel viaggio di morte, mi rendevo conto che avevano ragione. Da principio lasciai guidare Farah, ma mi pareva fosse colpa sua se finivamo continuamente fra buche e solchi, e presi io stessa il volante. Prima però andai a lavarmi le mani nell'acqua scura dello stagno. Sembrava che la strada non dovesse finir più. Avrei potuto arrivare in Danimarca, pensavo, in tutto quel tempo. L'ospedale indigeno di Nairobi si trovava sulla collina proprio all'inizio della discesa che conduce nella conca della città. Era tutto buio, silenzioso. Ci volle un pezzo prima che riuscissimo a svegliare qualcuno. Finalmente comparve un vecchio dottore o assistente goano, vestito di un curioso negligé. Era un uomo grasso, dai modi estremamente placidi, e una strana maniera di ripetere lo stesso gesto, prima con una mano, poi con l'altra. Mentre trasportavamo Guamai dalla macchina, ebbi l'impressione che fosse percorso da un brivido e si irrigidisse leggermente. Ma quando arrivammo nella sala piena di luce dell'ospedale, era già morto. Il vecchio Goano, agitando la mano verso di lui, diceva: "È morto!" E poi, indicando Wayangherry: "È vivo!" Non rividi mai più quel vecchio, perché non tornai più all'ospedale di notte, quando evidentemente era di turno. In quel momento i suoi modi mi dettero fastidio, ma in seguito ebbi la sensazione che il fatto stesso, avviluppato in una serie di grandi mantelli bianchi uno sull'altro, ci fosse venuto incontro sulla soglia dell'ospedale, distribuendo imparzialmente vita e morte. Appena si trovò dentro l'ospedale, Wayangherry, destandosi dal suo sonno ipnotico, fu preso da un terribile panico. Non voleva lasciarci andare, gridava, singhiozzava, aggrappandosi a me e a chiunque gli fosse accanto in preda a una spaventosa angoscia. Finalmente il vecchio Goano lo calmò con un'iniezione, poi, guardandomi di sopra gli occhiali, ripeté: "È vivo." Abbandonai i due bambini, il morto e il vivo, là, su due barelle, ai loro differenti destini. Belknap ci aveva seguiti con la motocicletta, più che altro per poterci aiutare a spingere la macchina nel caso si fosse fermata per strada. Ora consigliò di andare a riferire l'incidente alla polizia. Ci recammo infatti alla stazione di polizia di River Road, nel centro della città. Ci trovammo così nel cuore della vita notturna di Nairobi. Non c'erano poliziotti bianchi al nostro arrivo e restammo ad aspettare in macchina che ne andassero a chiamare uno. La strada era costeggiata da alti alberi di eucaliptus, l'albero di tutte le città pioniere degli altipiani. Le sue foglie sottili la notte emanavano un profumo strano e piacevole, creando strani effetti alla luce dei lampioni. Alcuni poliziotti indigeni stavano strascinando alla stazione di polizia una prosperosa ragazza swahili che resisteva con tutte le forze. Vedemmo portare dentro anche alcuni giovani che avevano partecipato ad una rissa e che ancora sulle scale della polizia cercavano di azzuffarsi. Poi, dal fondo della strada, spuntò un altro, un ladro probabilmente, arrestato proprio in quel momento. Lo seguiva un lungo codazzo di nottambuli, in vena di divertirsi, che facevano un gran baccano, prendendo le sue parti o quelle della polizia. E finalmente arrivò un giovane poliziotto, reduce anche lui, pareva, da una festa molto allegra. Con grande delusione di Belknap, dopo aver cominciato a stendere il rapporto con un'aria di estremo interesse e una velocità impressionante, principiò a immergersi pian piano in pensieri profondi, a strascicare lentamente la matita sul foglio, finché non rinunziò del tutto e si rimise la matita nel taschino. Avevo freddo nell'aria della notte, finalmente potemmo tornare a casa. Ero ancora a letto la mattina dopo, quando dalla quiete concentrata che mi circondava capii che ci doveva essere molta gente intorno alla casa. Sapevo chi erano e cosa volevano. Erano i vecchi indigeni venuti ad annunziarmi che avrebbero tenuto un chiama per la strage della sera prima. Mi aspettavano là fuori, chiacchierando sottovoce, masticando, fiutando tabacco, sputacchiando, accovacciati sui sassi. Un chiama è un'assemblea di anziani autorizzata dal governo a dirimere le controversie locali. Se avviene un delitto o un incidente grave, i membri si riuniscono continuando per molte settimane a nutrirsi di carne di montone, di chiacchiere e di disastro. Ora, lo sapevo, i vecchi volevano discutere con me della tragedia della notte, non solo, ma in seguito avrebbero cercato di farmi intervenire al processo in veste di giudice. Quella mattina, però, io non mi sentivo di intraprendere discussioni di sorta, mandai quindi a prendere il cavallo per allontanarmi dalla casa e da loro. Uscendo, come avevo immaginato, trovai vicino alle capanne dei domestici l'intero circolo degli anziani. Per non perdere la loro dignità di assemblea, finsero lì per lì di non vedermi. Ma quando si accorsero che avevo intenzione di andarmene, si affrettarono ad alzarsi sulle gambe vacillanti e agitarono disperatamente le braccia verso di me. Per tutta risposta, feci un cenno con la mano e partii al trotto.